Alleluia, abbiamo un Dio buono. Amen. Sempre, Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono, Dio provvede, Dio ha cura di noi, Lui è il Re sovrano, Lui è il Signore, Lui è il nostro Salvatore, Lui è il Dio che verrà. L'abbiamo cantato ed è bellissimo poter cantare dei brani che ci ricordano la verità della parola di Dio e ci ricordano che vedremo la sua gloria, Lui tornerà e tutto questo, ogni sofferenza di questo mondo avrà fine. Amen. Amen, alleluia. È buono, è importante ricordarcelo in tempi come questi. E sapete, 2 anni fa, esattamente oggi è 6 marzo, l'8 marzo di 2 anni fa, del 2020, eravamo qui. Eravamo molto pochi, eravamo proprio pochi. C'ero io e c'era qualcun altro con me perché la maggior parte di voi era a casa. Era la prima domenica di lockdown, ve lo ricordate? La prima che pensavamo fosse l'unica e poi è diventata un susseguirsi di settimane in lockdown e tutti noi da casa vivevamo questo incontro guardando lo schermo del nostro computer o della nostra televisione. E in quell'occasione, l'8 marzo 2020, il Signore mise nel mio cuore di leggere un brano dalle parole di Gesù, perché amiamo Gesù. Amen. Noi siamo innamorati di Gesù. Amen. La nostra Chiesa è appassionata di Cristo, noi dipendiamo dalle sue parole, no? E quindi 2 anni fa, nel mezzo di qualcosa di estremamente sorprendente, perché l'epidemia avevamo sentito che aveva cominciato ad esserci in Cina e sorprendentemente ora la seconda nazione più colpita era proprio l'Italia. E quindi sorpresi, disorientati, sgomenti, impauriti anche e incapaci di comprendere bene cosa stesse succedendo, abbiamo letto insieme Luca 21. Perché in Luca 21 Gesù adotta un linguaggio che è profetico, anzi proprio profetizza. E profetizza sulla fine dei tempi, e profetizza su quello che sono la fine dei tempi e il tempo che intercorre dalla resurrezione di Cristo alla sua seconda venuta e alla fine del mondo per come lo conosciamo oggi. E quindi noi ci troviamo in questa fine dei tempi e Gesù descrive ogni aspetto di questo lungo tempo, oramai sono più di 2000 anni, 2022 anni, questo lungo tempo che è caratterizzato da cose specifiche. Perché abbiamo letto quel brano? Per farvi notare che Gesù non era sorpreso, per farvi notare che Dio non era disorientato, che Dio non si è visto arrivare il Covid dicendo: "Oh mamma mia, che cos'è quest'altra cosa? Non è mai successa". Invece Gesù l'aveva visto, l'aveva profetizzato ed è per questo che insieme l'abbiamo letto. L'8 marzo 2020 abbiamo letto questo brano proprio per riconoscere che Gesù parlava di pestilenze che sarebbero venute. E io oggi, 2 anni dopo, in un tempo nel quale l'emergenza del Covid pare che non abbia più questo peso, e in un tempo nel quale le emergenze si sovrappongono, no? Perché all'emergenza di un'epidemia adesso si sovrappone l'emergenza di una guerra, voglio rileggere a voi Luca 21. Perché per quanto tu possa essere sorpreso, per quanto tu possa essere disorientato, Gesù non lo è mai, perché come abbiamo sentito qualche settimana fa, lui è sovrano e lui conosce la fine sin dal principio. E se vogliamo trovare sicurezza, stabilità e orientamento nella nostra vita, ci conviene fare riferimento a lui, perché è l'unico che conosce ogni cosa, sempre, puntualmente, e ci indica la via da seguire. Siete d'accordo con me? E quindi per questo vogliamo leggere Luca 21 insieme e io voglio rileggere quanto profetizzato da Gesù e voglio porre un'attenzione particolare sulle istruzioni che lui dà, perché lui non fa solo una descrizione profetica di quello che verrà o di quello che è venuto o di quello che stiamo vivendo, ma dà anche delle indicazioni molto specifiche di come affrontare tutto questo. E questa è la parte che ci deve interessare, perché Gesù ci dice come comportarci. Dio ci dà delle istruzioni molto chiare e sono ben descritte. Quindi io vorrei leggere questi versi perché la Chiesa, la famiglia di Dio, i discepoli di Cristo Gesù devono essere il popolo più orientato sulla terra. Qualche giorno fa sentivo l'intervista a un ragazzo, un uomo, non mi ricordo, lui diceva: è inconcepibile che nel 2022 noi dobbiamo vivere ancora una guerra come si viveva 50 anni fa o quanti anni fa c'è stata la guerra mondiale. È inconcepibile? È inconcepibile se pensi che l'uomo migliora nel tempo. È inconcepibile se pensi che l'uomo migliora nel ricordare la storia passata. Se pensi che l'uomo effettivamente, facendo memoria di quello che è accaduto, non commetterà più gli stessi errori. Ma la parola di Dio non dice che questo è quello che avviene. La parola di Dio dice che l'uomo cambia solo quando il suo cuore è trasformato mediante il rinnovamento miracoloso di Cristo Gesù. E quindi non dobbiamo sorprenderci. Le cose si ripeteranno e si prospetteranno tempi difficili. Però abbiamo la salda certezza di avere un re e un signore che è sovrano sui tempi e sulle stagioni e che ci dà la possibilità di affrontarle al meglio. Amen. Leggiamo insieme Luca 21. Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi ed egli disse: verranno giorni in cui tutte queste cose che voi ammirate, di tutte queste cose che voi ammirate, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Profezia avvenuta. Nel 70 d.C. il Tempio è stato distrutto, Gerusalemme è stata invasa. Essi gli domandarono: maestro, quando avverranno dunque queste cose? Quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Egli disse: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo: sono io, e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Allora disse loro: insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione e trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Voi sarete traditi perfino dai genitori, fratelli, parenti e amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Gesù fa riferimento alla vita eterna. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti e quelli che sono in città se ne allontanino e quelli che sono nella campagna non entrino nella città. Perché quelli sono giorni di vendetta affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Non so se vi ricorda qualcosa. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo perché la vostra liberazione si avvicina. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Gesù dà delle istruzioni molto chiare. Dice: non andate dietro falsi salvatori, che si annuncia essere Gesù. Non siate spaventati. Date testimonianza facendo forza nelle vostre parole nello Spirito Santo che vi istruirà. Rialzatevi, levate il capo, siate costanti, badate a voi stessi per non essere intorbiditi e presi da stravizio e ansie, vegliate e pregate. Queste sono tutte le istruzioni che Gesù dà in questi versi che abbiamo insieme letto. Però io voglio soffermarmi su due in modo particolare. La prima istruzione sulla quale voglio soffermarmi ha a che fare proprio con le guerre. Gesù dice: non siate spaventati. Parto proprio da questa istruzione perché è importante che noi comprendiamo perché davanti a quella che è la minaccia di stabilità maggiore, una guerra, no? Davanti a quello che è la cosa che più provoca paura, Gesù possa dire: non siate spaventati. È un paradosso, no? Tu leggi di guerre, di nazione contro nazione, e c'è Gesù che ti dice: in quell'occasione, proprio davanti alle guerre, proprio nel mezzo della guerra, non abbiate paura. Come si fa a non aver paura? Come si fa a non essere spaventati? Nei video che vediamo, nei telegiornali che tutti stiamo seguendo, la paura è ciò che contraddistingue ognuna di quelle persone, e immedesimandoci non possiamo pensare di vivere altrimenti se non una profonda angoscia, un disorientamento ed estrema paura. Però qui è la gloria della parola di Dio. Perché vedete, quello che Gesù profetizza, quello che Gesù annuncia, è ciò che noi oggi viviamo ed è quello che vivremo. Ci sono cose che forse non sono ancora accadute, che accadranno. Ora le sappiamo tutte perché le abbiamo lette. Ora, nel prepararci a vivere tutto questo, dobbiamo renderci conto che Gesù ci dà delle istruzioni che hanno efficacia solo nel momento in cui comprendiamo chi è colui che ce le dà. Anche nella peggiore delle circostanze, tu puoi vivere nella pace e nella sicurezza che Dio ha da darti. Anche davanti alla minaccia più grande per te e per la tua famiglia, e so che non siamo in guerra e quindi non ho ragione di incoraggiarvi in questa direzione, però io so che per cose molto più piccole noi siamo spaventati, disorientati e impauriti. Per questo Gesù ci presenta la peggiore delle circostanze, e nella peggiore delle circostanze ci dice: non abbiate paura. La forza di questa istruzione non sta in chi l'ascolta. La forza di questa istruzione sta in chi parla. Quando Gesù ti dice non avere paura, non essere terrorizzato, oppure come in altri Vangeli, il vostro cuore non sia turbato, lo dice perché sa che nell'affermare questa istruzione noi possiamo cogliere la forza che ci viene dato dall'istruttore. È Gesù che ti dice non avere paura. È Gesù che ti dice questa mattina, non temere. E ho avuto conferma di questa parola, anche perché prima pregavamo su in regia e c'era qualcuno, Davide, che pregava e diceva, Signore, in questi tempi dai consolazione, dai forza alla Chiesa e non far vivere paura. E mentre lo davamo, Peter è venuto a me e ha detto, di alla Chiesa di non aver paura. E quindi ho una conferma ulteriore per dirvi questa mattina, Chiesa, non aver paura per nessuna cosa. Dio è colui che ti dice di non averla. E in questo c'è grande consolazione. Perché tutto ciò che Gesù ti chiede di fare, tu lo puoi fare mediante il suo stesso aiuto. Lo ripeto, tutto ciò che Dio ti dice di fare, tu lo puoi fare mediante il suo stesso aiuto. Perché non sono io a dirtelo questa mattina. Perché non è tua moglie o tuo marito a dirti questa mattina. Non è un politico, non è una persona influente che ti dice non aver paura. Queste persone, per quanto gentili e magari incoraggianti possano essere nella nostra vita nel dire queste parole, non sono Gesù. È Gesù che ti dice non aver paura. E se Gesù dice qualcosa a te, tu puoi vivere quella cosa perché Lui a dirtela. È lì che c'è la forza. Qualsiasi cosa Lui vuole che tu abbia, se hai fede e ti affidi a Lui, la otterrai. Ogni cosa che Dio vuole che tu abbia, Dio vuole che tu hai pace. Puoi avere pace. Dio vuole che tu abbia pazienza. Puoi avere pazienza. Dio vuole che tu abbia costanza. Puoi avere costanza, perché Lui ti dà questa istruzione, ma non ti lascia solo o sola. Ti dice, facciamolo insieme, io lo faccio per te, vieni a me. Vuoi forza, vuoi coraggio, vuoi pace, vuoi pazienza, vuoi consolazione, Lui è la fonte. Lui ti dà tutto questo. La paura è uno stato d'animo, lo sappiamo molto bene. E ogni stato d'animo che noi viviamo parte da ciò che pensiamo. E questa mattina la mia preghiera è che queste mie parole possano provocare uno stato d'animo diverso in te. Perché la mia preghiera è che i pensieri che producono in te ansia, i pensieri che producono in te paura o disorientamento siano sostituite dalla verità di Cristo Gesù. E se tu sostituisci le bugie che hai nella mente, che producono ansia e preoccupazione e paura, con i pensieri e le parole di Cristo Gesù, tu avrai coraggio, forza e sicurezza. Siamo qui per questo. Vi ricordate Pietro, che a un certo punto Gesù ha detto, no, non ve ne andate anche voi, perché una gran parte della folla se n'era andata, perché il discorso di Gesù è stato un po' più difficile da assimilare. Pietro ha risposto a Gesù, dove andremo noi? Tu solo hai parole di vita e noi? Aiutatemi a completare. E noi abbiamo creduto. Vedete, Gesù ha parole di vita e nel momento in cui tu credi nelle parole di vita, tu non hai ragione di perderti, di smarrirti, di allontanarti da Lui, anzi ti avvicini e dici, anche se non comprendo tutto, anche se non tutto mi è chiaro, tu hai parole di vita e io credo in te. Gesù ti dà parole di vita oggi e Lui ti dice non aver paura, non essere intimorito, non essere turbato, io sono colui che ti dice queste cose. Ed è lì la tua forza, è lì la mia forza. Attento a quello che pensi. Pensa a quello che pensi. Ripensa a quello che pensi in virtù del fatto che io ti sto chiedendo di pensare di nuovo a quello che pensi, perché quello che pensi determina quello che vivi e io voglio che tu pensi cose che producono pensieri in te, che producono vita, stabilità, sicurezza. A cosa stai pensando? Questo è l'anno nel quale come Chiesa siamo invitati a pensare all'eternità. Quanti stanno pensando all'eternità? Oh, sono contentissimo. Pensa, pensa alla sua gloria. Pensa alla sua sovranità. Pensa al suo controllo. E di conseguenza vivi una vita priva del blocco che è provocato dalla paura. Il maligno vuole mettere paura in te per bloccare la tua azione. E la Chiesa invece è chiamata in questi tempi ad essere più attiva che mai. Il diavolo vuole bloccarci e fermarci e impaurirci e metterci all'angolino e a fare da eco a quello che già abbondantemente viene detto, ma il Signore vuole sbloccarci da quell'angolino e dire: tu sei chiamato all'azione, tu sei chiamato a vivere coraggio, tu sei chiamato a non rimanere fermo, tu sei chiamato ad accettare e abbracciare i sì che io ho stabilito per la tua vita. Quello che abbiamo sentito la scorsa settimana, ci sono dei sì che Dio ha stabilito per te. Non permettere alle paure di far tramutare quei sì in ni e quei ni in no. Dio ti vuole in azione, non aver paura. Voglio farvi vedere una foto, risale a qualche capodanno fa, lo deducete un po' anche dalla foto un po' sgranata. Qualche capodanno fa io avevo paura dei botti di capodanno, e tuttora sinceramente non mi piacciono molto i botti di capodanno. Mi piacciono più i fuochi d'artificio. Anche quando ero piccolo amavo vedere i fuochi d'artificio, non amavo i botti. E quindi ero intimorito, impaurito, e non avevo il coraggio di salire con i miei fratelli sul terrazzo a vedere i fuochi d'artificio di Capodanno. E allora mio padre cosa faceva? Diceva: vieni, vieni, ti proteggo io. E vedete l'immagine esplicativa. Quello che lui faceva, e lo ha fatto per più di un Capodanno perché me lo ricordo, era prendermi e avvolgermi nel suo cappotto, sotto il suo cappotto, tappare le mie orecchie e permettermi di vedere i fuochi d'artificio. Io ero sicuro, e la mia sicurezza non stava in quel cappotto. Se papà avesse tolto il cappotto e me l'avesse dato, quel cappotto non mi avrebbe dato la sicurezza. Il cappotto non era la mia forza. La forza era nel mio papà, invincibile, capace di affrontare ogni botto e ogni fuoco d'artificio. Posso ricordarti questa mattina che tu hai un papà che è più grande di ogni botto, che lui è più grande di ogni paura, e lui ti avvolge in quel cappotto, e quel cappotto è l'istruzione che ti dice non temere. Ma la forza non è nell'istruzione. La forza è chi indossa quell'istruzione, in colui che ti dà l'istruzione, in colui che ti dice non temere. Amen. Hai un papà, hai un padre buono. Io non so se sei cresciuto con questa sicurezza. Io sono stato enormemente privilegiato e sono grato a Dio per il papà che ho avuto. E io invito tutti i papà a dare sicurezza ai vostri figli, perché la vostra sicurezza determinerà il loro coraggio. Siate ripieni di Spirito Santo, come lo è sempre stato mio padre, perché la sua forza ha determinato il mio percorso di vita. Papà, non abbiate paura, perché se rimani con tuo figlio chiuso in casa per paura dei botti, tuo figlio non imparerà ad essere coraggioso. Sii coraggioso, perché anche tu hai un papà ed è il Dio sovrano su ogni cosa. Ed è Lui che ti avvolge per primo sotto il suo cappotto e dice: lo puoi fare, ce la puoi fare benissimo, perché io sono con te. Guardate questa immagine, guardate il mio sorriso. Eppure avevo paura. Io spero che questa immagine rimanga indelebile nei vostri cuori, perché quel sorriso è il sorriso che tu puoi portare nella tua quotidianità, sapendo che il tuo padre ha cura di te, che lui ti protegge, che lui è con te, ed è lui che ti dice non temere. La seconda istruzione di cui voglio parlare questa mattina e poi concludere è l'istruzione nella quale Gesù dice: vegliate, vegliate. E vegliate significa rimanete svegli in tempi nei quali è normale dormire, questa è la veglia. Essere vigili quando ogni altro è assopito dal sonno. Questo è ciò che fanno le veglie, questo è ciò che fa chi veglia. E il Signore ti dice, nelle istruzioni che abbiamo letto, vegliate, vegliate, non addormentatevi, non siate assopiti. Le altre istruzioni che abbiamo letto in realtà sono unite anche a questa parola, a questo verbo di vegliare. Faccio riferimento a rialzare il capo. Tu puoi rialzare il capo perché sei vigile. E Gesù ti dice alza il capo, non camminare con il capo chino, non essere abbattuto, alza, alza il capo alle cose del regno, alza il capo al dominio che io ho, alza il capo alle cose che ci sono in cielo. Gesù ci invita a fare questa preghiera, la tua volontà anche in terra come già fatta nel cielo, ma se tu non guardi il cielo, se tu non alzi il capo, non puoi fare efficacemente questo tipo di preghiera, alza il capo. C'è potenza nel regno dei cieli, sei consapevole? Dio domina su tutto, su ogni cosa gli è sottomessa, Lui è nel trono celeste, Lui è in dominio e ti invita questa mattina ad alzare il capo, a non abbassarlo come molti vorrebbero, come i tuoi nemici vorrebbero, non abbassare il capo alle circostanze. Non addormentarti, non assopirti. Forse questa è una parola per qualcuno che sta abbassando il capo e si sta addormentando perché il messaggio si sta prolungando. No, alza il capo, sii vigile, sii sveglio, sii attento, sii in azione. Questo è quello che il Signore ci invita a fare, ci invita a dare testimonianza. Io vorrei soffermarmi su tutte le istruzioni, però non avrei il tempo, vi invito a casa a rileggere Luca 21 e a vedere tutte le istruzioni. Gesù dice, date testimonianza nella persecuzione. Anche in questo caso è un paradosso, dice, nel momento dove è meno opportuno dare testimonianza, perché qualcuno ti può ammazzare proprio per la testimonianza, ti perseguita proprio per quella testimonianza, Gesù ti dice, no, proprio in quel momento dai testimonianza. La tua persecuzione è un'occasione di testimonianza. Vedete il livello al quale il Signore ci chiama come cristiani, come Suoi discepoli, non ad essere assopiti, schiacciati, inscatolati a causa delle circostanze e delle situazioni e dei dominatori di questo mondo, ma piuttosto in tutte le circostanze, anzi soprattutto quelle più avverse, ad essere vigili, ad essere in azione. A rendere testimonianza del nostro Dio che ci dà coraggio. Non fare da eco, sia una voce fuori dal coro. Quando scrivi nei social, sii una voce fuori dal coro, perché le persone non hanno bisogno di sentire quello che già da tanti sentono, hanno bisogno di sentire la nostra testimonianza. Hanno bisogno di sentire che tu sei un padre coraggioso in questo tempo. Hanno bisogno di sentire che tu sei una madre che è costante nella preghiera. Hanno bisogno di sentire che noi come Chiesa non ci fermiamo, ma piuttosto avanziamo. E avanziamo con maggiore determinazione davanti alle circostanze più difficili. Perché le circostanze più difficili portano gloria. E stamattina abbiamo in mezzo a noi due persone. Onofrio e Irma sono proprio davanti a me, al centro sala. E sapete, proprio quelle domeniche, nel mezzo del lockdown, mentre non c'era la possibilità di riunirci e venire in chiesa, Dio, attraverso le circostanze più avverse, ha permesso che l'Evangelo, attraverso un video di YouTube, arrivasse nella loro casa. E che loro sentissero, domenica dopo domenica, in modo particolare Onofrio, sentisse domenica dopo domenica, buongiorno Chiesa, al punto tale che si è scocciato di sentire questo, buongiorno Chiesa, e lui si metteva in una stanza diversa da Irma che ci seguiva. Questo è un po' per elogiare Irma e abbassare un po' te, però mo ti riscatto, mo recuperi. Buongiorno Chiesa, fino al punto che è andato a Irma e ha detto io voglio conoscere questo buongiorno Chiesa. E alla prima occasione, quando si è sbloccata la situazione, è venuto in chiesa, non è entrato in chiesa, è rimasto fuori. E ha detto a Irma, ma chi è Buongiorno Chiesa? E si riferiva a me, perché io dico Buongiorno Chiesa. E quindi è venuta a me e ha detto, sei tu Buongiorno Chiesa? E io ho detto, sì, Buongiorno Chiesa. E ci siamo conosciuti. E poi da lì, entrambi hanno aperto il loro cuore, l'anno scorso si sono battezzati. Vedete, le circostanze avverse sono un'occasione straordinaria affinché l'Evangelo si espanda. E con questo non voglio dire che Dio provoca le guerre, che Dio manda le sciagure, ma voglio dire che nelle avversità che Lui già sa che verranno, vuole permettere al suo popolo di elevarsi, alzare il capo, essere vigili e portare testimonianza. Sapete qual è la richiesta di preghiera che noi sentiamo dai nostri fratelli ucraini? Pregate. Pregate affinché ci sia data l'occasione di evangelizzare. Pregate affinché in questo momento i cuori delle persone davanti alla minaccia di morte possano abbracciare il miracolo più grande. Il miracolo più grande non è che si fermi una guerra, il miracolo più grande è che un'anima sia salvata per l'eternità. A che serve una guerra che si ferma se poi per il resto dell'eternità vivrai nella guerra, vivrai nella distruzione, vivrai nella disperazione, nell'angoscia, nella paura, nella sofferenza, perché sei distante da Dio? Preghiamo affinché la guerra cessi. Preghiamo affinché questa stupidità, scelleratezza dettata dall'avidità dell'uomo sia bloccata, ma preghiamo e uniamo a questa preghiera affinché il cuore di tanti ucraini e tanti europei, un continente che ha perso la propria fede e che è spento, che questo sia il tempo propizio per un risveglio nel nostro continente, nella nostra nazione. Questa è la cosa più gloriosa che può accadere e io prego che noi come Chiesa possiamo essere vigili e pregare le giuste preghiere. Non avere il cuore intorpidito, dice Gesù. Non avere il cuore addormentato. Non avere il cuore spento. Questo significa intorpidito. Intorpidito da cosa? Dal stravizio, dice. E che cos'è lo stravizio? È lasciarsi andare in una sregolatezza, in pigrizia, in ubriachezza, in pornografia, in intrattenimento, in droghe, che tutto ciò che il diavolo ha da proporre in una maniera animata in questo tempo. Parlavo con un fratello proprio qualche giorno fa e lui mi spiegava quanto l'uso di cocaina in questi mesi sia aumentato a dismisura. E dove paesi quali Palo del Colle, Bitonto, Modugno siano piazze di droga, perché la gente è spaventata, perché la gente è disorientata, la gente non sa come vivere bene e trovare gioia nella quotidianità e quindi ricorre a sostanze, ricorre a cose che possono dare un sollievo, anche seppur momentaneo e poi con un retrogusto distruttivo e di morte, perché hanno bisogno di speranza. Le persone che ricorrono alla droga, al gioco d'azzardo, sono persone che non lo sanno ma stanno cercando Gesù. Noi lo dobbiamo sapere. Noi dobbiamo sapere che quando cercano quelle cose stanno cercando un sollievo e una pace. Stanno cercando una libertà e una sicurezza. E noi abbiamo da dare a loro questo. Per questo Chiesa, vigili, attenti, attivi e non intorpiditi. Amen. Io voglio ringraziare la Chiesa, voi tutti, perché dimostriamo insieme come Chiesa di essere un corpo ben unito, soprattutto quando le circostanze si fanno avverse. Abbiamo accennato a una raccolta per benedire e aiutare gli ucraini. E siamo stati immersi. di vestiti, alimenti, medicinali. La parte finale di questa sala era piena e si è riempito pure l'atrio, al punto tale che quando è arrivato il camion non avevamo più spazio per riporre tutta la roba. Infatti, se vi affacciate nell'atrio, c'è tanta roba accumulata, pronta per il prossimo viaggio. La prontezza della Chiesa che è generosa nel dare deve essere la prontezza di una Chiesa che è anche generosa nel testimoniare e nell'annunciare e nell'aiutare in tante altre maniere. Io voglio ringraziare la Chiesa perché abbiamo vissuto Dono perché amo nel mese passato e voglio dirvi la cifra, siete pronti? Abbiamo raccolto nel mese scorso 12.905 euro. 905 euro. E voglio ringraziare chi ha dato quella 5 euro. E voglio ringraziare chi ha dato più di 5 euro. E voglio ringraziarvi perché in questo dimostriamo di essere cristiani. Le circostanze possono, nella nostra carnalità, chiuderci a riccio e aumentare la nostra avidità, avarizia e cercare il nostro benessere. E ci rifugiamo in tutte quelle attività, in tutte quelle cose che possono produrre benessere per noi e per la nostra famiglia. E il Signore invece ci permette, come Chiesa, di essere generosi e andare oltre ciò che fa bene a noi, ciò che mette sicurezza in noi, il nostro conto bancario, le nostre sicurezze in famiglia, il nostro tempo dedicato a vedere le serie televisive, ma rinunciamo a tutte queste cose per servire gli altri, per benedire gli altri, per portare avanti il regno di Dio. Questa è la Chiesa che noi siamo e questa è la Chiesa che ci invito ad essere in questo tempo più che mai. Amen. Accogliamo queste parole, accogliamo le parole di Cristo Gesù e le sue istruzioni. Vogliamo fare un applauso al nostro Dio che è sovrano, che è re e che ci dà il privilegio in ogni stagione di alzarci in piedi, alzare il capo ed essere forti per il bene di molti. La tua forza sarà una fonte di forza per tanti altri. Alziamoci in piedi e preghiamo. Voglio chiedere a tutti coloro che alla luce di questo messaggio vogliono proprio preghiera e dicono: io voglio vincere le mie paure, io voglio vincere la mia ansia, io voglio vincere la mia carnalità del chiudermi a riccio, concentrarmi su me stesso perché mi fa paura e mi disorienta quello che accade attorno a me. Se tu hai bisogno di questa preghiera, io voglio pregare per te. Quindi voglio invitare tutti noi a chiudere i nostri occhi e se hai una paura da vincere, se hai un'ansia che ti sta prendendo e riconosci che ti sta immobilizzando, allora ti chiedo di alzare le tue mani e voglio pregare. Anche a Mottola, se hai bisogno di questa preghiera, alza ora le tue mani, ma anche se sei a casa, alza le tue mani e Gesù a vedere il tuo cuore arreso davanti a Lui. Padre, nel nome di Cristo Gesù, prego che la paura sia vinta. Io prego in questo momento affinché l'ansia sia vinta. Io prego che i pensieri diabolici che hanno tartassato e che stanno riempendo le menti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle siano rimpiazzati dai tuoi pensieri di pace e di sicurezza. Nel nome di Gesù io dichiaro vittoria, io dichiaro liberazione nel cuore di ognuno che ha paura. Io dichiaro vittoria e liberazione per ogni tuo figlio che è chiamato all'azione, affinché nessuno rimanga più seduto a guardare impaurito, ma affinché tutti ci possiamo alzare in piedi e vigorosamente testimoniare, annunciare e influenzare il mondo che ci circonda con l'Evangelo e con la speranza del tuo messaggio della croce. Gesù, lo prego nel tuo nome prezioso. Alleluia. Amen. Vogliamo tutti alzare le nostre mani e vogliamo adorare il Signore. Fai una tua preghiera al Signore di arresa. Cerchiamolo in questo momento insieme. Prega Dio in accordo con quello che il Signore ti ha voluto dire questa mattina. Prendi una decisione ora. Forse in preghiera ora devi decidere: io voglio dare la mia vita per la tua causa, Signore. Io non voglio risparmiarmi e non voglio dedicarmi a cose che sono solo per il mio benessere, ma voglio dedicarmi all'opera tua. Voglio rinunciare alla mia vita e abbracciare la croce per seguirti. Forza, preghiamo, Chiesa. Stiamo alla sua presenza. Facciamo decisioni in questo momento. Alleluia, Gesù. Ascolta le nostre preghiere. Alleluia, Gesù. Prenditi cura della tua Chiesa. Che ognuno di noi possa entrare nell'azione che tu hai stabilito.